Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo di cinema, anzi di cinema italiano che non sembra godere ottima salute, quantomeno al botteghino, soprattutto negli anni in cui non c'è Zalone che batte tutti e sfonda il mercato. Eppure il cinema italiano è un cinema molto assistito e questo spiega anche come ci sia una produzione numerosa di film, ma alla quale non corrisponde un successo appunto nelle vendite dei biglietti altrettanto significativo. E da qui, da molti anni si sono seguite le polemiche su questo tema. Il nostro cinema è un cinema finanziato, un cinema assistito dallo Stato, e quindi molti si chiedono perché lo Stato debba dare dei soldi a dei film che poi nessuno o poche persone vanno a vedere. Si è parlato e si sono fatte anche negli ultimi anni alcune riforme significative per affrontare questo tema, di altre riforme si parla, e fa il punto su questa situazione molto particolare il libro curato da due esperti, uno di economia del cinema che è Marco Cucco e l'altro un esperto di storia del cinema italiano, Giacomo Manzoli, che insieme appunto hanno curato Il cinema di Stato, finanziamento pubblico ed economia simbolica nel cinema italiano contemporaneo, pubblicato dal Mulino, 274 pagine, 27 euro, e contiene interventi di Luca Barra e Massimo Scaglioni, Dominic Holdaway, Giacomo Manzoli e Andrea Minuz, Federica D'Urso e Francesca Medolago Albani. I due curatori vogliono affrancare l'indagine sul finanziamento pubblico al cinema italiano dalle questioni ideologiche, che sono pure molto forti su questo tema, e quindi esaminano semplicemente i fatti che non lasciano spazio a molti dubbi. Scrivono infatti i due curatori nell'introduzione che buona parte dei film italiani vengono realizzati mettendo in conto di essere in perdita. Il finanziamento di questo committente diventa semplicemente vitale. Se non ci fosse lo Stato, insomma, i film non si potrebbero fare. Ma aggiungono gli autori che nonostante le riforme che sono state fatte, una la fece il ministro della cultura Giuliano Urbani, ecco, nonostante quella riforma il sistema del finanziamento pubblico non ha funzionato in maniera soddisfacente neppure nell'ultimo decennio, anzi essi sottolineano come non ci sia paese europeo come l'Italia in cui la cultura finanziaria abbia guadagnato posizioni, quindi noi finanziamo sempre di più la nostra cultura, in particolare il cinema. Scrivono Cucco e Manzoli: sembra sempre più chiaro che i settori maggiormente vitali, quelli in cui si assiste a una più spiccata capacità di produrre forme e significati innovativi e influenti, sono quelli che escono dal sostegno statale, quindi non necessariamente il sostegno statale garanzia di ricerca e di qualità. Insomma, qualche riflessione sul tema va fatta con l'obiettivo di spendere bene i soldi dei contribuenti e di raggiungere lo scopo per cui si dice di spendere questi soldi, ossia di riportare la gente al cinema. E di questo ora parliamo con uno dei curatori, Giacomo Manzoli. Buonasera Giacomo Manzoli. Buonasera. Giacomo Manzoli, nell'introduzione che ha scritto con Marco Cucco a questo libro, voi ponete al centro del sistema produttivo una caratteristica italiana, cioè il fatto che nel nostro cinema il ruolo importante è quello dell'autore rispetto ad altri paesi, rispetto ad altri sistemi. Quali sono le conseguenze di questa centralità autoriale, autorale, come voi la definite, nel cinema italiano? Sì, questo è un fenomeno che diciamo si è iniziato a verificare intorno agli anni, fine anni 50, inizio anni 60, e poi si è andato via più sviluppando ed è diventata la caratteristica saliente, direi, non di tutto il cinema italiano, ma certamente del cinema italiano finanziato dal pubblico, dallo Stato nelle sue varie forme. La conseguenza principale, direi, è che il pubblico tendenzialmente, a meno che non si tratti di grandi autori, cioè di personalità geniali o comunque straordinarie, diserta quei film. Alla fine non si sente coinvolto in una comunicazione, per così dire, alla pari, ma ha sempre qualcuno che gli parla in cattedra su un piedistallo e non è piacevolissimo per lo spettatore. Voi insistete sul fatto che questa vostra diagnosi non nasce da una pregiudiziale ideologica, anzi fate un'analisi scientificamente condotta su un certo numero di pellicole, di film, eccetera, per giungere appunto a queste conclusioni, che il cinema di Stato non funziona. Quali sono i difetti principali del cinema di Stato italiano? Ma allora, fondamentalmente noi abbiamo analizzato il cinema di Stato in un periodo compreso fra la legge Urbani, che era del 2004, e il 2015, cioè i film che sono poi usciti l'anno scorso, e questa legge si basava su un doppio presupposto: da un lato promuovere il cinema di interesse culturale e dall'altro però promuovere anche l'industria cinematografica italiana. Da quest'ultimo punto di vista il fallimento è sotto gli occhi di tutti, basta guardare i report dello stesso ministero per vedere che la percentuale di incassi del cinema italiano è intorno al 16-18%, cioè la più bassa dal 1993, per capire che qualcosa si è rotto. Se ne è reso conto anche il governo, che infatti ha varato una nuova legge che è in attesa dei decreti attuativi. Diciamo, il difetto, il problema peggiore è sicuramente questo, cioè a fronte di un momento di vitalità in cui questa legge aveva funzionato, che ha portato all'affermazione di alcune figure senz'altro pregevolissime, il Sorrentino, il Garrone e così via, negli ultimi anni il sistema ha mostrato tutti i suoi limiti, in particolare con questa deriva, diciamo così, di un finanziamento a pioggia che porta a realizzare sempre più film, sempre meno costosi e sempre meno appetibili per gli spettatori. A proposito di pioggia, voi notate come una delle risposte alle accuse principali che si rivolgevano al tradizionale sistema di finanziare i film, cioè quello dell'arbitrarietà con cui si davano i soldi, è stato il cosiddetto reference system, cioè un sistema di finanziamento basato su dei criteri legati alla qualità degli autori, dei produttori, eccetera, eccetera. Però appunto così si è finito nel tempo col far piovere sul bagnato, voi scrivete, cioè si sono finanziati sempre i soliti noti. Quindi una delle risposte all'arbitrarietà non ha funzionato. Allora come uscire da questo paradosso? L'uscita non è semplicissima, perché effettivamente il reference system nasceva da un'intenzione lodevole a fronte di alcuni casi che erano stati considerati scandalosi. Ricordo Senso 45 di Tinto Brass, finanziato appunto dal ministero, altri casi del genere. Si era pensato di introdurre un meccanismo automatico di punteggi, solo che questo meccanismo automatico produce questo effetto, cioè se c'è un attore che ha già recitato in film, che hanno già ricevuto i finanziamenti, che sono andati ai festival e hanno ottenuto riconoscimenti, e lo stesso il regista, il direttore della fotografia e così via, il film ottiene un punteggio molto maggiore e quindi alla fine a lavorare sono sempre gli stessi. Come se ne esce? Se ne esce con l'assunzione di responsabilità, cioè purtroppo non esistono dei criteri oggettivi per stabilire la validità di un'attribuzione, una validità, diciamo così, assoluta. Bisogna creare delle commissioni che siano fatte bene, cioè con persone super partes, possibilmente svincolate dal controllo politico, e che si assumono le responsabilità, ci mettono la faccia e se sbagliano in qualche maniera sono chiamate a risponderne. Altrimenti si verifica quel fenomeno che uno spettatore disincantato, come uno studioso straniero che ha scritto per voi, cioè Dominique Holdaway, definisce il male principale del cinema italiano, cioè il fatto di aver dato vita a un sistema chiuso. In che cosa consiste questa chiusura? Sì, lui, questo collega appunto inglese, però conosce bene naturalmente la lingua e la situazione italiana, ha fatto quella che tecnicamente si chiama network analysis, cioè ha fatto un'analisi sui big data relativi al cinema italiano, incrociando tutti i cast and credits dei film a partire dalle strutture produttive, e si è accorto che tendenzialmente lavorano sempre gli stessi, cioè nell'arco temporale da noi considerato ci sono attori, registi, produttori che hanno realizzato un numero di film che sarebbe considerato gigantesco perfino a Hollywood, che ha un bacino, diciamo un mercato di riferimento che è 100 volte superiore a quello italiano, e quindi figuriamoci in Italia con l'effetto di saturazione che si può immaginare, ma anche la sensazione appunto che sia un po' una consorteria. Uno dei capitoli più interessanti, almeno che io ho trovato più interessante, anche un po' malinconico e divertente allo stesso tempo, è quello che lei ha scritto con Andrea Minuzzo sui contenuti del cinema di Stato. Questi film finanziati dal pubblico hanno tutti delle caratteristiche relative al tipo di attore, alle prospettive che si descrivono, al tipo di società che si rappresenta, allo schema morale che si vuole trasmettere, abbastanza omogenei. Che cosa emerge? Quali sono gli elementi in comune di questi film? Diciamo, questo deriva un po' dal problema di cui stavamo parlando un attimo fa, cioè se a fare i film sono sempre gli stessi, è chiaro che tendenzialmente mettono sempre in scena lo stesso tipo di personaggio, lo stesso tipo di conflitti, lo stesso tipo di prospettiva, con lo stesso stile. Si va dal dato macroscopico, cioè una dei propositi e delle buone ragioni, diciamo così, per cui il cinema viene finanziato è quello di incoraggiare la diversità, la differenza dei punti di vista e così via. In realtà, andando a vedere, solo il 13% di questi film sono diretti da una donna, per dire il dato macroscopico. Il numero di film in cui i personaggi sono, per esempio, figure non italiane o comunque non di razza caucasica, per così dire, sono limitatissimi, e quando compare qualche personaggio che ha queste caratteristiche, insomma, di incarnare la differenza, è sempre in un ruolo stereotipato, sempre interpreta quel tipo di figura che ci possiamo immaginare, e così via, anche per quanto riguarda lo stile e anche per quanto riguarda l'atteggiamento morale, cioè c'è sempre un atteggiamento un po' didascalico in cui bisogna dimostrare quali sono i veri valori della vita, quali sono le cose giuste, quali sono quelle sbagliate e così via, un'attitudine un po' didattico-didascalica che appunto è abbastanza fastidiosa, soprattutto se replicata per un numero così ampio di film. Insomma, un cinema conformista. Alla fine un po' sì, questo è esattamente il risultato. Grazie a Giacomo Manzoli, curatore con Marco Cucco di Il Cinema di Stato. Buona serata. Grazie a lei, buona serata. Restiamo in ambito cinematografico con un giallo che riguarda un industriale milanese appassionato di cinema e vittima nel libro di Erika Rosio, che è un critico cinematografico, e Giorgio Maimone, che è un giornalista che ha lavorato a lungo anche nel gruppo editoriale al quale appartiene questa radio, nonché ideatore e autore di programmi, che hanno scritto insieme CinemaScope, un delitto alla moviola per Greta e Marlon. È pubblicato da Tea, 348 pagine, 16 euro. La vittima dal quale prende le mosse il libro è Edilio Borghini, un cumenda, si diceva allora, di Milano negli anni 60, attratto da cinema e starlette, trovato morto proprio nei giorni in cui il mondo è sconvolto dall'uccisione di Kennedy, in una villetta nella via dove ci troviamo adesso, cioè in via Monterosa. E sulla misteriosa morte dell'industriale, alla quale seguiranno altri delitti, indagano la coppia dell'avvocato Greta Morandi e del detective Mario Longoni, testimoni di una Milano che sta cambiando pelle dopo la frenesia del boom. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Un libro tira l'altro. Buon ritrovati con Salvatore Carruba. Restiamo a Milano, ci spostiamo nel tempo di pochi anni, andiamo nel 1945 e ci spostiamo anche geograficamente dalla zona fiera a Piazzale Loreto, la piazza milanese dove erano stati appesi ed esposti al ludibrio il 29 aprile del 45 appunto i cadaveri di Mussolini, della Petacci e di altri gerarchi fascisti. E questo ambiente è quello nel quale si svolge il libro di uno dei più fini critici teatrali italiani, Enrico Groppali, che ha scritto Piazzale Loreto, è pubblicato da Mondadori, 152 pagine, 20 euro. Si alternano nella narrazione di Groppali due laide figure, un maschio e una femmina decadute, soprattutto la seconda, che dialogano tra di loro sulle rispettive bassezze, sulle tante storie che hanno da dimenticare riconducibili soprattutto all'illusione che avevano nutrito di poter svolgere chissà che ruolo nelle perversioni del fascismo e conclusesi invece nell'indifferenza generale nei loro confronti che si manifestano al crollo di un mondo al quale avevano creduto. Poco tempo prima, rispetto alle vicende che abbiamo raccontato, nel 1943 si era conclusa l'avventura questa storica di una donna eccezionale per il coraggio e lo spirito dimostrati in un'occasione eccezionale e drammatica come fu la Shoah. Parlo di Etty Hillesum, la ragazza olandese di origine ebraica che lavorava in un'istituzione ebraica di Amsterdam, una condizione che le avrebbe consentito di fuggire e di salvarsi dalle persecuzioni naziste. Invece Etty rimase insieme ai suoi, fu catturata nel 1943 e deportata ad Auschwitz, dove poi sarebbe morta. Una vita che merita di essere raccontata con la partecipazione di una grande scrittrice come fa Edgarda Ferri nel libro Un gomitolo aggrovigliato è il mio cuore, vita di Etty Hillesum, pubblicato dalla Nave di Teseo, 182 pagine, 16 euro. E il libro ci dà un ritratto dell'eroina che è passata alla storia anche per le lettere, non soltanto per il suo sacrificio, per le lettere, dicevo, e per gli scritti contenuti nei diari e in altri documenti di cui abbiamo parlato diverse volte anche in questa trasmissione. Sentiamo proprio dal libro il riuscito ritratto di Etty che ci dà Edgarda Ferri. Etty era come il cielo di Amsterdam. Un grigio di piombo che di colpo si sgretola in una miriade di frammenti azzurri solcati da nuvole bianche, immobili o vagabonde, trasparenti o compatte, perfettamente rotonde o ritagliate in tanti nastrini paralleli. Era come le foglie dei morbidi olmi disseminati nei giardini e nei parchi, aeree e flessibili, vibranti e frementi al minimo soffio di vento, ora trasparenti e traslucide, ora impenetrabili e scure, ora pallide e inerti. Era come i 600 canali che solcano, tagliano, traversano, disegnano il cuore della città. Labirinti di acqua melmosa, appena dopo una curva trasparente e pulita, solcati da ponti, oltre i quali il paesaggio è sempre una sorpresa. Di Milano parliamo adesso, ma con un simbolo molto più luminoso e celebre in tutto il mondo, il Duomo, di cui l'anno prossimo celebreremo un sesto centenario importante. Il 16 ottobre del 1418, infatti, Papa Martino V consacrava il nuovo altare maggiore della cattedrale, la cui costruzione era stata avviata nel 1386. E questo episodio chiude il libro di uno storico dell'Università di Milano, Paolo Grillo, che ha scritto Nascita di una cattedrale, 1386-1418, la fondazione del Duomo di Milano, è pubblicato ancora da Mondadori, 324 pagine, 22 euro. Il Duomo di Milano, spiega Grillo, nasce nel segno di un equivoco su chi lo abbia veramente voluto, ossia Gian Galeazzo Visconti, il signore di Milano, o il popolo milanese. E quando può essere fissata la fondazione del nuovo Duomo? Fino adesso le discussioni vertevano fra la data del 1385, del 23 maggio, o del 1387, il 7 maggio, quando si cominciò a riedificare da capo la chiesa. Probabilmente, spiega l'autore, si trattò semplicemente di un errore di scrittura con un 6 che diventa un 5 e quindi si può fissare la data di fondazione della cattedrale di Milano con relativa certezza al 23 maggio del 1386. E Gian Galeazzo era salito da poco al potere, l'anno prima aveva fatto uccidere lo zio Bernabò col quale aveva condiviso il potere sul territorio dei Visconti e aveva assunto il controllo della città, col disegno peraltro di circoscrivere l'influenza della capitale, per così dire, sull'area circostante. E proprio le prospettive del declassamento avevano preoccupato le classi dirigenti di Milano, ma anche il popolo, e queste preoccupazioni facevano perno, cercavano un conforto nel potere religioso di Milano. La cattedra di Sant'Ambrogio era molto autorevole ancora già in quegli anni, e allora il Duomo diventò un segno anche di pacificazione, un'occasione di sviluppo economico, e così il Duomo nacque con grandi ambizioni condivise da tutta la città, che queste righe spiegano bene. Fino a quel momento la grande protagonista del cantiere era stata la cittadinanza milanese. In realtà Gian Galeazzo Visconti, pur mantenendosi inizialmente defilato, aveva accolto i vantaggi che anch'egli avrebbe potuto ottenere dall'iniziativa. Le potenze italiane ed europee si scambiavano messaggi anche attraverso i simboli. Edificare una possente cattedrale era un segno di forza e di potenza, e quella di Milano avrebbe umiliato, almeno quanto a dimensioni, tutte le rivali. L'area che il Duomo milanese era destinato a occupare era probabilmente già stata definita con una certa precisione sin dalla fondazione. L'edificio sarebbe stato lungo 158,5 metri e largo 57,5, occupando una superficie di 9.113 metri quadrati. In questo modo si sopravanzavano tutte le cattedrali allora in corso di costruzione, da quella fiorentina di Santa Maria del Fiore, lunga 160 metri e larga 43, a quella imperiale di San Vito di Praga, lunga 124 metri e larga 60. Milano e il suo signore volevano edificare la più grande chiesa del mondo. Nel corso del 1387, i segnali dell'interesse del Visconti verso la nuova cattedrale si moltiplicarono. Poi il libro illustra la storia di questi primi eroici anni nei quali prende forma la Chiesa, che superò anche la crisi rappresentata dalla morte avvenuta nel 1402 di Gian Galeazzo, che nel testamento non nascose la sua distanza verso la cattedrale, alla quale preferì la Certosa di Pavia come sede del proprio sepolcro, fino, dopo alti e bassi, alla rinascita che si avviò appunto col cantiere del 1413, che avrebbe portato alla consacrazione del 1418. E parliamo di un'altra basilica celeberrima, forse la più celebre di tutte, la basilica per antonomasia, cioè San Pietro in Vaticano. E anche di questa chiesa seguiamo le vicende costruttive nel libro Quando la fabbrica costruì San Pietro, un cantiere di lavoro di pietà cristiana e di umanità, XVI-XIX secolo, curato da Assunta di Santa e Simona Turriziani, pubblicato dal Formichiere, 592 pagine, 35 euro. Le due studiose, che sono esperte di archivistica la prima e di letteratura antica la seconda, hanno preparato questo volume in occasione dell'anno santo svoltosi l'anno scorso, e qui raccolgono vari scritti di diversi autori su vari aspetti anche insoliti delle attività che intorno a San Pietro si sono sviluppate, soprattutto nel corso della sua costruzione. Perciò si parla dell'amministrazione finanziaria, dell'accoglienza alla basilica, della formazione delle maestranze, dei mosaicisti, di alcuni temi solitamente meno battuti, per esempio le allegrezze che, scrivono le curatrici, si svolgevano sotto forma di danze, brindisi e pranzetti a San Pietro, oppure il ruolo delle maestranze femminili, che è approfondito da Paola Torniai. Mogli, vedove, orfane di fabbricieri, impegnate nelle mansioni più varie e inserite in un sistema di protezione sociale a favore delle congiunte dei lavoranti. Insomma, una miniera di informazioni e di curiosità arricchite da molte immagini che ci faranno conoscere meglio questa poderosa macchina di fede e di bellezza. E un'altra grande capitale, Napoli, incontriamo nell'ultimo libro di uno dei suoi cantori più appassionati, Luciano Di Crescenzo, l'ingegnere narratore che è brillantemente arrivato alla soglia dei 90 anni e che ora pubblica Napoli Mia, l'anima della città raccontata da Bellavista, pubblicato da Mondadori, 222 pagine, 18 euro. Questa è una serie di pagine tratte da vari libri di De Crescenzo che accompagnano una serie di vecchie foto dello stesso De Crescenzo. Sono foto inedite e che sottolineano anche la passione dell'autore per la fotografia. Anzi, De Crescenzo aveva cominciato a descrivere Napoli proprio con la macchina fotografica. E a questo punto il confettino. Una visione insolita di tante città, anche italiane, troviamo nel libro di David Helmond, illustrato da Dieter Wiesmüller e tradotto da Damiano Abeni, Il sogno del Nautilus, è pubblicato da Orecchio Acerbo, 17,50 euro. Queste sono pagine sott'acqua. L'acqua infatti ha ormai conquistato il pianeta, inghiottendo le città, e gli abitanti delle acque, squali, balene, delfini, polpi, volteggiano davanti i monumenti più celebri. Per esempio troviamo un Capodoglio a Venezia, gli squali a Firenze che cercano di addentare il David di Michelangelo, e un delfino davanti alla Fontana di Trevi. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Roberta Frisani in regia, ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.